in primo piano. Buona giornata ancora da parte mia. Devo dire che le prime pagine dei giornali hanno quasi unanimemente deciso di dare risalto alle questioni tra Berlusconi e la Lega, queste dichiarazioni di Berlusconi che dà una sorta di altolà alla Lega, così riassume Repubblica, e anche alle dichiarazioni di Brunetta che invece ha avuto delle parole pesanti nei confronti degli studenti dell'Onda che hanno manifestato l'altro ieri a Roma. Differisce un po' da questo quadro complessivo la prima pagina del Sole 24 Ore, da cui cominciamo. Il titolo più importante del quotidiano economico del Sole 24 Ore è «Scudi fiscali in Europa». Tra le misure allo studio anche i vincoli di reinvestimento. In Francia e Germania si discute di provvedimenti per il rientro dei capitali dall'estero, le ipotesi per l'Italia. Ricorderete lo scudo fiscale, l'Italia ha avuto uno scudo fiscale nel periodo tra il 2001, la fine del 2001 e il 2003, si tratta sostanzialmente di una misura di carattere temporaneo che consente la riemersione, il ritorno alla normalità, alla legalità fiscale, alla correttezza fiscale per capitali, patrimoni, opere che sono possedute all'estero, naturalmente in una forma di scorrettezza, di anonimato fiscale. Ora c'è una pressione in qualche modo europea, vari paesi ci stanno pensando, come riferiamo sul Sole 24 Ore di oggi, e le misure vengono individuate come possibili e utili per far emergere liquidità e anche contrastare i cosiddetti paradisi fiscali, cioè quegli stati che non sono trasparenti nello scambio di informazioni con le amministrazioni. Ancora dal Sole 24 Ore, una notizia che era probabilmente attesa dai piccoli lavoratori e piccoli imprenditori: IVA per cassa, pronte le regole con tetto a 200.000 euro. Il provvedimento è pronto il decreto dell'economia, spiegano Antonio Criscione e Renato Portale dalla prima pagina del Sole 24 Ore, per attuare le norme sull'IVA per cassa. Ricorderete, è quella norma che consente di rinviare il versamento dell'IVA fino a che non viene incassato il pagamento della fattura. Il beneficio ha avuto già il via libera da Bruxelles. Il provvedimento dell'economia, a quanto risulta, fissa il tetto del volume d'affari per i soggetti che vogliono godere del differimento del pagamento a 200.000 euro annui. La firma del decreto è prevista per la prossima settimana. E poi naturalmente sul Sole 24 Ore spazio alla commemorazione del giuslavorista Marco Biagi, ucciso 7 anni fa dalle Brigate Rosse. Le parole di Napolitano, sforzo comune per una politica del lavoro. Un commento di Michele Tiraboschi comincia dalla prima pagina del Sole 24 Ore di oggi. E poi vi segnalo due storie parallele, ma come dire, assolutamente opposte negli esiti, che vengono sempre segnalate sul 24 Ore. Indesit Company sceglie la Polonia, e invece L'Oreal che dà fiducia a Torino. Storie di localizzazione e delocalizzazione della produzione. Cristina Casadei spiega che Indesit Company sceglie la Polonia per produrre lavastoviglie e quindi chiude lo stabilimento di None in provincia di Torino, non solo una questione di minor costo del lavoro, ma anche di spese energetiche e tributarie. Marica Gervasio, nell'articolo accanto, spiega invece che per L'Oreal c'è una strategia opposta. Delocalizzare non è sempre la soluzione migliore, o meglio l'unica. Produrre in Italia, restando competitivi, si può. È il caso dello stabilimento di Settimo Torinese dell'Oreal, scelto dalla multinazionale della cosmetica come sito produttivo strategico per make-up e shampoo dei marchi di largo consumo per Europa e mercati extra UE. Quindi due vicende analoghe e opposte negli esiti. In un caso, quello della L'Oreal, si è deciso di restare, di confermare la produzione in Italia per la capacità, anche l'abilità produttiva in qualche modo del personale su cui si può fare affidamento nel nostro paese. Nell'altro caso, quello della Indesit, invece la delocalizzazione per ragioni, appunto, come riassumiamo in prima pagina, di costi dell'energia e carico fiscale. Vediamo dalle altre prime pagine, come vi dicevo, molto spazio alle questioni Berlusconi-Lega e alle dichiarazioni di Brunetta. Vediamo la Repubblica: Berlusconi altolà della Lega, Bossi chiede troppo, così viene riassunta la frase del Presidente del Consiglio, le ronde non mi piacciono. Il leader del Carroccio replica da parte sua, il Premier subisce il pressing di Alleanza Nazionale. E poi un richiamo per il monito ONU, l'ONU contro il governo viola i diritti degli immigrati. Grande foto in prima pagina di Repubblica per lo sciopero avvenuto ieri in Francia, la primavera dello scontento. Francia 3 milioni in piazza. Ancora dalla Repubblica, nella parte bassa, un'inchiesta su un tema inconsueto. I figli di una sola metà del cielo hanno due mamme o due papà. In Italia sono più di 100.000 i ragazzi di genitori gay. Il servizio di Maria Novella De Luca spiega che appunto sono, secondo le ultime stime, almeno 100.000 in Italia i figli di genitori che hanno stabili relazioni omosessuali sono appunto stati concepiti all'estero nei centri di fecondazione assistita e sarebbero, appunto, riferisce Maria Novella De Luca, figli bimbi sereni, dicono gli psicologi, gli insegnanti, i pediatri che li analizzano fin dalla culla negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, in Inghilterra e adesso anche in Italia. Questa è la segnalazione dalla Repubblica. Il Messaggero dà il suo primo titolo alla commemorazione di Marco Biagi. Lavoro, riforme senza faziosità sono le parole del Presidente della Repubblica pronunciate ieri. Appello di Napolitano, necessario uno sforzo comune, sbagliato arroccarsi. Il Capo dello Stato ricorda Marco Biagi, il suo impegno dà ancora frutti. Nella parte centrale della prima pagina quotidiano romano, sicurezza, altolà di Berlusconi, la Lega non può volere tutto. Il Premier contrario alle ronde, Bossi dice troveremo un accordo. Poi naturalmente gli scontri alla Sapienza che per il quotidiano romano hanno una evidenza particolare, foto degli scontri con foto del ministro Brunetta, Brunetta contro l'onda, sono guerriglieri, studenti opposizione, parole inaccettabili. Il servizio di Anna Maria Sersale già aveva curato nei giorni scorsi i servizi sulle vicende universitarie. All'interno del quotidiano due pagine sulla polemica tra Brunetta e l'Onda. Il ministro si scusi e si dimetta, il day after tra accuse e dibattiti, l'unione degli studenti contro Brunetta, e intanto mercoledì, avverte il Messaggero, è prevista un'altra manifestazione. L'Onda attacca manifesti, siamo tornati, ma in realtà nei vialetti dell'università tutto tace. I ragazzi chiedono anche di discutere le nuove norme con i sindacati. Il protocollo, si sta discutendo anche del protocollo che a Roma regolamenta i cortei per evitare appunto un impatto troppo pesante per la capitale, per la mobilità della capitale. Sulla pagina accanto la posizione del ministro Brunetta, l'Onda sono guerriglieri e la sinistra, provocazione inaccettabile. La dichiarazione poi è stata modificata, è stata corretta in sono ragazzotti in cerca di sensazioni, così è appunto detto il ministro. La Gelmini getta acqua sul fuoco, il collega a volte usa toni forti. Il Corriere della Sera dà il suo primo titolo alla vicenda Berlusconi Bossi, immigrati Berlusconi frena Bossi, il Premier contro la linea dura, la Lega non può volere tutto, il Senatur troveremo l'accordo. L'Agenzia ONU accusa l'Italia, la replica di Frattini, indignati, sono falsità. Centro pagina, così come abbiamo visto su altri quotidiani, anche per il Corriere della Sera, la polemica tra Brunetta e gli studenti. Gli studenti sono guerriglieri, Brunetta attacca ed è scontro. Poi il ministro precisa, quattro ragazzotti. Nella parte bassa della prima pagina del quotidiano di Via Solferino, racket fa arrestare l'ex compagno di banco. In Sicilia un imprenditore si rifiuta di pagare, va dai carabinieri. La cosa notevole, la cosa più curiosa di questa vicenda è che il ricattatore era il suo ex compagno di banco, che invece gli chiedeva il pizzo. Poi un'inchiesta curata da Gian Antonio Stella, Veneto, il cemento che non serve, ci sarebbero case già sufficienti fino al 2022. Mentre Luigi Offedu segnala le lamentele le critiche degli Inuit, degli eschimesi, contro gli ambientalisti. Talvolta si sentono di queste posizioni, appunto le posizioni più attive di difesa dell'ambiente finiscono talvolta per trasformarsi, almeno a giudizio delle popolazioni locali, in posizioni in realtà controproducenti per l'ambiente. È il caso appunto riferito da Offeddu, eschimesi Inuit in rivolta, gli ambientalisti sono peggio dei cacciatori, è una vicenda che parte dal Canada, le iniziative degli ambientalisti secondo appunto gli abitanti della zona fanno del male a orsi e balene. Vediamo la stampa dà il suo titolo più importante a Brunetta, l'onda guerriglieri, il ministro attacca gli studenti, poi si corregge, solo 4 ragazzotti. E nel centro pagina Berlusconi stoppa Bossi, non può volere tutto, il premier capisco la rivolta dei 101. Ma a centro pagina sulla stampa una foto di Rino Gattuso, campione del mondo e centrocampista del Milan, che dice sì all'idea del Milan, c'è crisi, mi taglio la paga. Quindi Gattuso che accetta questa autoriduzione di stipendio per i tempi di crisi. Tra l'altro sulla vicenda della disponibilità o meno di denaro, già ieri la Gazzetta dello Sport titolava con la vicenda mercato calcistico low cost, oggi sempre sulla Gazzetta dello Sport mercato low cost, ma che la Juve spende, e ci sono le dichiarazioni del presidente Cobolli, abbiamo il gruzzolo per permetterci un asso. Poi nelle pagine interne si apprende che gli assi seguiti più da vicino dalla Juve sarebbero David Silva del Valencia, Ribas de Cunha del Werder, Fabio Quagliarella dell'Udinese, Antonio Cassano della Sampdoria. Questi gli possibili obiettivi segnalati dalla Gazzetta dello Sport. Dal secolo XIX ancora spazio invece a Berlusconi e la vicenda della polemica con la Lega. Berlusconi stoppa ronde e denunce, condivido la lettera, il riferimento è alla lettera dei 101 dissidenti della maggioranza sulla denuncia obbligatoria, sull'obbligo di denuncia dei clandestini da parte dei medici e in generale di tutti coloro che hanno una mansione di pubblico ufficiale. Condivido la lettera, è il riassunto del secolo XIX, la Lega non può avere tutto. E poi nella parte alta, sempre la prima pagina, tutti i dubbi dei cattolici sul Papa delle polemiche, l'ultima dichiarazione apre una riflessione su tutto il pontificato, questo annuncia il secolo XIX. Abbiamo visto che c'è notevole spazio dedicato quasi unanimemente alla polemica tra Berlusconi e Bossi e alle polemiche pure tra il ministro Renato Brunetta e gli studenti della Sapienza. Vediamo qualche prima pagina che si costa un po' da questi due temi. Quella di Libero parla di sindaci biscazzieri, vizi privati, pubblici debiti. Il riferimento è ai derivati, alla sottoscrizione di contratti derivati che mettono poi in difficoltà le casse del comune. Riassume il sommario sotto il titolo: primi cittadini, presidenti di regioni e province hanno giocato con la finanza come fossero al tavolo della roulette, con i nostri soldi ora andati in fumo. Lo spazio delle due notizie più in evidenza, cioè la questione Brunetta studenti e quella tra Berlusconi e Bossi, sono affidate l'una a una caricatura del ministro Brunetta, immaginato come Rambo, il guerrigliero è Brunetta, gli studenti teppisti, il ministro contro le proteste dell'onda, e poi il richiamo del cavaliere alla Lega, Berlusconi dà un buffetto a Bossi e riacchiappa Fini. Quindi Gianluigi Paragone riassume così, con questo buffetto appunto di Berlusconi a Bossi, e in realtà una manovra politica per il riavvicinamento verso Fini. Questa è la prima pagina di Libero. L'Avvenire tiene comprensibilmente in evidenza il viaggio del Papa in Africa. Africa, le cattive coscienze, il titolo di Avvenire oggi. Benedetto XVI avvia le chiese africane verso il sinodo, state con Cristo, sarete il continente della speranza. Il Papa incontra a Yaoundé anche i malati di AIDS, per i quali aveva chiesto al mondo ricco cure finalmente gratuite, e uomini di potere continuano ad attaccarlo, segnala polemicamente Avvenire nella sua prima pagina. La Padania in questa giornata di accuse e, come dire, buffetti tra Berlusconi e Bossi si occupa della lite, dello scambio di battute tra i due. Solo nelle pagine interne, perché la sua prima pagina è dedicata al federalismo, sono dichiarazioni di Calderoli, il ministro Calderoli, federalismo la prima vera riforma condivisa, Calderoli durerà decenni ed è il tassello di un mosaico, spiega dopo il varo ad aprile al lavoro su riforme costituzionali e codice delle autonomie. Nelle pagine interne la dichiarazione di Bossi sullo scambio di battute con Berlusconi, Bossi, Silvio è un amico, un equilibrio si trova sempre, quindi basso profilo, viene da dire, cioè toni smorzati su La Padania, che è appunto diretta da Umberto Bossi e dell'organo della Lega Nord. Il Manifesto dedica la sua prima pagina alla denuncia ONU sui trattamenti degli extracomunitari in Italia. Slegami è la parola in evidenza nella prima pagina e il riassunto della condanna ONU, un paese sempre più razzista e xenofobo, è la dura condanna dell'ONU nei confronti dell'Italia dove, e qui si aprono le virgolette, le violazioni dei diritti umani persistono anche verso i richiedenti asilo e i rifugiati, compresi i Rom. Come sapete, il ministro Frattini ha replicato abbastanza seccamente a questo tipo di richiesta. L'Unità torna invece con una grande foto di studenti dall'aspetto assolutamente pacifico in corteo, torna quindi così sulla vicenda di Brunetta, guerriglieri è invece la parola con cui si commenta questa foto. Vi segnalo che il Secolo d'Italia, in vista dei congressi dell'Alleanza Nazionale e del PDL, sarà in edicola anche lunedì 23, così annuncia la sua prima pagina, appunto come resoconti dei congressi del doppio appuntamento congressuale di Alleanza Nazionale e del PDL, quindi edizioni straordinarie per il quotidiano di Alleanza Nazionale. E poi una prima pagina diversa su Il Giornale. Così cambierà la scuola italiana, quindi si è deciso di dare ampio spazio alle dichiarazioni che sono giunte da una conferenza stampa del ministro Brunetta e del ministro Maria Stella Gelmini sulle novità in arrivo per la scuola. Il ministro Gelmini ha annunciato tetto del 30% per gli alunni immigrati in ogni classe, è l'ultimo atto di un processo che sta rivoluzionando l'istruzione. Ecco le norme e i provvedimenti che entreranno in vigore da qui al 2010 e infatti nelle pagine interne, nelle pagine 2 e 3 del giornale, vengono riassunti sia le misure già prese, già in vigore, sia quelle che sono state annunciate. Così cambia la scuola, lavoro curato da Francesca Angeli sul giornale, in aula non più di 3 stranieri su 10. È l'ultimo capitolo della riforma Gelmini, ecco punto per punto come sarà studiare nel futuro. E seguono poi in 10 finestre le novità che abbiamo visto a partire dal settembre del 2008, sapete il ritorno ai voti espressi con i numeri e non più con i giudizi, la raccomandazione per il grembiule, la decisione sul 5 in condotta, lo stanziamento per l'edilizia scolastica, ancora nel marzo, cioè è di pochi giorni fa, sempre a settembre 2008 viene ricordato il pluralismo istituzionale, una delle misure contenute sempre nelle misure urgenti varate dal ministro Gelmini. E più avanti invece per gli annunci per il futuro, queste quote agli immigrati, un tetto per far apprendere meglio, il Ministero dell'Istruzione sta valutando l'introduzione di un tetto intorno al 30% per la presenza di alunni stranieri nelle classi. Notizie dell'Altrieri, parola del Ministro Maestrella Gelmini, non credo che ciò sia possibile già a partire dal prossimo anno, ma dal successivo. Comunque sto chiedendo ai dirigenti uno sforzo per risolvere già dal prossimo anno i casi limite, ha detto il ministro, per il quale è importante accompagnare i bambini stranieri nella conoscenza della lingua italiana. E con questa segnalazione dedicata alle novità già introdotti un arrivo per la scuola che abbiamo preso da Il Giornale. Io vi saluto, vi ringrazio di averci seguito in questa settimana, di avermi seguito in questa settimana nella rassegna stampa. Ringrazio Carmelo Lauricella che mi ha assistito in regia. Vi do appuntamento a domani alle 8.30, quando saremo invece insieme per Magazine 24, la nostra rassegna stampa, non più dei quotidiani ma dei periodici.